In it for you. In it, your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sandona 102.2, Radio Sherwood 97.800, bentornati in Music for you. Il compito della serata aspetta a me e anche ad Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariol e buonasera soprattutto a quel milioni di scoiattoli armati fino ai denti che aspetta in riva al Po di poter combattere. Sono compiti difficili quelli di stasera e per questo ci appelliamo all'aiuto del pubblico. Il pubblico da chi è rappresentato? La telefonata a casa o l'aiuto del pubblico? Si materializzano nella stessa identica cosa, ossia negli ospiti. Sì, l'ospite di questa sera, buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera ospiti. Buonasera. L'ospite Ciao. Barra ospiti, nel senso che sono barra. Due, però la, che è sta barra? Che, la borra sarebbero gli Hermetic Garage o Garage. E qui si apre già una diatriba. O Hermetic. O Phoenix o Fenì. Si discuteva anche di questo. Gentile radioascoltatore. Radioascoltatore medio, diciamo. Facci sapere. Sì, chiamaci allo 0421 560 993. Abbiamo degli ottimi seni di silicone con i quali ti accoglieremo virtualmente. Quanta bellezza, vero? I labroni degli Hermetic Garage o Garage già ci mettono del loro. E noi potremmo partire con la prima domanda, Daniele. E immagino che la partorirai tu. Va bene. Fallo con dolore. Sempre per cominciare con un avvio comunque in perfetto stile, non lo so, nuovo. Malgioglio Tempi d'Oro. Sì. Allora, il vostro approccio al gelato. Nel senso di... al cioccolato dolce un po' salato. Molto bene. Molto ho avuto bene. Un momento di difficoltà. C'era Mauro che era molto buono quello di Grom, non per fare pubblicità, però andate a Venezia e mangiatelo, perché quello artigianale conservato così è veramente valido da almeno una volta nella vita, quelle cose da fare almeno una volta nella vita. Invece io ieri sera sono stato alla gelateria nella mia città, non volevo dire Mussetta perché è così triste, però sono stato da Sciarra e ho portato del gelato a una cena e il conto era dei 29 euro. Costa e 10 tantissimo. Centesimi. È una rapina a mano armata. Ora non ho più soldi per andare all'università. E Sciarra però ho visto che ha un bellissimo giubbottino nuovo questa mattina in centro. Costava 28,90 euro. Sono le cose che interessano ai nostri ascoltatori. Bene, comunque, abbiamo gli Hermetic Garage e noi vogliamo sapere perché si chiamano così. Sì, prima vorrei segnalare che ho visto in Mauro, quando gli hai chiesto dei gelati, la stessa faccia che ho visto in Andreotti quando si è fermato a Buona Domenica. o quando l'ha baciato Rina. Esatto. Cioè, non se l'aspettava. Una paralisi assoluta. Vi prego, è il tempo di cedere la parola agli Hermetic Garage. Sì, o anche la stessa faccia di Mike Buongiorno quando l'hanno... Basta! Fate qualcosa di buono per questo programma, grazie. Allora, il nome, se volete la spiegazione normale, nel senso più vicino al microfono. Se volete, ci sono un sacco di leggende intorno a questo nome, in realtà non è vero. È nato come al solito per una casualità, nel senso che ci piaceva come suonava, piaceva la maggior parte del gruppo. Poi in realtà c'è un discorso dietro legato all'estetica creativa nel comporre un'opera d'arte. In sostanza quest'opera si chiama Hermetic Garage, è di un autore franco-belga che è Moebius, in arte Moebius, il vero nome è Jean Giraud, che ha compiuto questo... ha compiuto questa, sì, insomma, quest'opera negli anni 70, in cui si lasciava andare al proprio esercizio stilistico, al di là della trama che c'era sotto, una trama fantascientifica, certo, che non ha né capo né coda in sostanza e comincia con un riassunto della puntata precedente che non esiste. In sostanza però pone al centro dell'opera la creatività, una creatività spontanea, infatti Moebius in questa 128 pagine di fumetto passa dagli stili più diversi, dall'iperrealismo al super deformed a tutta un'altra serie di tecniche fumettistiche con la china, e quindi la libertà creativa che noi vorremmo esprimere attraverso la musica è esattamente questa, una spontaneità creativa che non ha alcun limite, visto anche l'andazzo della maggior parte di gruppi che purtroppo per vendere in questo mercato sono obbligati ad essere inseriti in un contesto musicale, in un genere. La prima cosa che ti chiedono: cosa fate? Quali sono le vostre influenze? Immagino sarà una domanda che verrà poi posta. E gliel'abbiamo appena bruciata. Appunto. Ma non preoccuparti. Ma la rifaremo, non è che... Beh, al di là di questo, l'importanza è che probabilmente arrivati a questo punto di saturazione musicale in cui si è già detto tantissimo, c'è chi dice che si è detto tutto a livello musicale, probabilmente la contaminazione e la libertà di sperimentazione è ciò che dovrebbe contraddistinguere la spontaneità creativa dei giovani, ma non dico solo a livello musicale, cioè in qualsiasi campo ci si voglia buttare, insomma. Dunque mi pare di capire che voi vi agganciate a parecchi generi. Sì. E allora ditemi quali sono. Le nostre singole influenze sono svariate, nel senso che ognuno di noi ha un percorso storico diverso con il proprio insegnante di musica e con le band passate, quindi si va dal blues al jazz, al free jazz, al funky, al progressive, al rock anni 60, al folk di Dylan dei primi anni, per poi il periodo elettrico, e non necessariamente questo poi per dire deve essere tutto quanto convogliato nella musica che facciamo, ma magari è un'influenza anche, come si dice, sottintesa in quello che facciamo. Io l'unica cosa che, la cosa che mi colpisce di questo discorso è che questo era franco-belga. Tu sapevi che in Belgio c'è una legge per cui tu non puoi tatuare un maiale? Non sto scherzando. Io del Belgio conosco solo i waffle. Io ho visitato Bruxelles. E i nani da giardino. E i nani da giardino e il cane sulla finestra di Bruges. Sì, sappiate che in un nostro Interrail io e Daniele siamo passati per Marcinelle e siamo ancora vivi a parlarvi. Sì, perché nonostante tutto il mostro ci ha lasciato vivi. Mauro, volevi dire qualcosa? Avevo visto un lampo di vita. Ti lascio continuare, poi torno. Ho avuto ancora una paresi a modo di Andreotti. Quando lo hanno rianimato con le piastre, ho rivisto la stessa identica cosa in te. No, andiamo ad ascoltarci qualcosa di sti Hermetic Garage o Garage, ditemi come... È open source. La pronuncia è open source. Ok, perfetto, non sarò mai in difficoltà. Mauro, diamoti della responsabilità, presentaci la canzone. La prima canzone della serata è No Emotional Reaction degli Hermetic Garage. Yeah. No Emotional Reaction, l'ho detta giusta? A quanto pare sì. Bentornati in Music for Youth, Alvise Favotto, tu una mente ottenebrata dalle tue sostanze lisergiche, produci qualcosa di buono per questo programma. Vorrei sapere sostanzialmente di quanti componenti si compone il gruppo. Sì. E poi che domanda è? E poi che strumenti suonano? Aveva detto che avrebbe fatto delle domande semplici alle quali potevamo rispondere. Sono molto elementari. La so, la so, la so. Adesso la tua autostima dovrebbe salire alle stelle perché hai pieno controllo su questa domanda. Allora, la so e posso rispondere. C'è Alessandro Magico alla vostra sinistra. Alla tua, alla nostra, anche sua, anche sua. Poi siamo sempre a sinistra. Io spero che ci sia gente che ci ascolta in bagno e alla sua sinistra è il bidet. Con rispetto, Il frontman e tastierista, nonché si occupa anche di una parte di elettronica. Poi c'è l'unica parte di elettronica, probabilmente, e muove le levette. E poi c'è Nicola alla chitarra, Giulio alla batteria, alle percussioni, ed io. Ah, il basso. E Dio al basso? E Dio basso. Da quando è che c'è un'entità ontologica suona il basso? Mi dispiace, ho detto una bestemmia in radio. Gli apostrofi non si sentono in radio. Infatti, stai attento. Però vabbè, continua pure. E basta, quindi siamo quattro e è sufficiente. Sì. Beh, siamo stati in cinque anche per un periodo. E infatti qui vedi che mi offri un ponte per la prossima domanda. I componenti della band sono cambiati nel tempo? E soprattutto perché hanno più peli in faccia? Ne hanno di meno da altre parti? Hanno meno soldi nelle loro tasche? Era la domanda principale in realtà. Sì, perché fare un EP costa. Sì, la formazione è rimasta sempre la stessa fino a quando faceva cover e si chiamava ancora 18 sotto al mixer. È stato un anno di rodaggio, conoscersi come persone, conoscersi come musicisti. Quando è arrivato il momento di comporre brani di nostra produzione, abbiamo cercato di fare qualcosa di veramente alternativo e difficoltoso proprio per noi fisicamente, cioè suonare con due batterie. Purtroppo la cosa non è andata a buon fine, perché per impegni sopraggiunti per uno dei due batteristi, che ha deciso che la sua vita insomma era altro e non era la musica, quindi ha scelto un'altra strada, ha continuato a fare l'università, con cui sono rimasti in ottimi rapporti ugualmente. Insomma, è stata una cosa impegnativa, perché suonare con due batterie in una stanza di 5 metri quadrati mette alla dura prova le orecchie delle persone. Gli Apollo 440 suonano con due batterie. Sì, è vero. E con un cane che corre. Era su Stop the Rock. Esattamente. E vedi che ma anche ci sono molti gruppi anche in Giappone, non so se conoscete i Boredoms, che guarda, io vedi, ti dico due grossi punti di domanda davanti a te. Se vuoi ti dico di sì, così sei contento e dormi bene. Vabbè, comunque sì, li conosco. Grande. Non è facile trovare gruppo, qualcuno che conosce i Boredoms. Ma vedi, sposami per questo. Insomma, ci sono diversi gruppi che sono con le batterie, ma sono a livelli tecnici e professionali molto più alti di quelli con cui noi abbiamo iniziato. Cioè, era un impegnativo sia per i due batteristi che per noi anche seguirli. E quando facevate cover, momento Amarcord, che cover facevate? Cioè, devo fare la lista o no, andare per genere? Andiamo con i pezzi, proprio i pezzoni. Non potevamo non aprire con gli Who, che riscuotevano sempre un successo notevole, e anche da suonare era uno dei pezzi. Chi? Agli Who. Chi? È una battuta, Lele. Sì, è negativa. Sì. Mi candido con Democrazia Cristiana al prossimo giro. Poi c'era il buon Jimi Hendrix. E poi Radiohead abbiamo fatto. È stato un bellissimo set acustico. Neil Young abbiamo fatto. Tra l'altro, domanda: nella gran difficoltà di trovare posti dove suonare, è vero che è più facile far suonare una band di cover? Poco ma sicuro, questo. Assolutamente sì. E non fa girare infinitamente le palle? Questa era la domanda sottintesa. Poco ma sicuro. Direi che è un intero sistema che fa girare un po' le palle, nel senso, sia per quanto riguarda le band che fanno cover, e soprattutto nessuno mi voglia male, ma per i DJ probabilmente, che in qualche modo, non per colpa loro, però per fortuna o purtroppo, hanno rubato in qualche modo la scena sia alla musica live. Sia chi fa cover sia chi non le fa rubano la scena, nel senso che perché ho bisogno di una band live da pagare con l'attrezzatura, il noleggio, le rotture di palle, obiettivamente contatta la band, devono venire qua prima a fare il soundcheck, eccetera eccetera eccetera, quando posso avere una persona che con un suo mixer e un computer mi gestisce ore e ore di serata, insomma. Quando il DJ schiaccia play, esatto. Sostanzialmente. Con tutto rispetto per la classe dei DJ, chiaramente. Questo era serio, eh? Questa era una frase... No, così. Che tu hai tratto dal tuo dizionario giovanile, pensione giovanile. En passant, no, me l'hanno anche suggerita i Queens of the Stone Age. Mm-hmm. E che mi suggeriscono anche che tuoi amici di vecchia data, di vecchissima data, ancora ai tempi di quando si chiamavano Gamma Ray, a quanto pare. Esatto, sì. Io li seguivo, mm-hmm. Gli pulivo la biancheria. E nel frattempo loro mi davano tutte queste grandi espressioni. Falele, usale, un giorno ti saranno utili. Raccatterai brogna a palate. Soprattutto quattro individui statunitensi che dicono brogna, io me li vedo. Soprattutto quando licenziano l'Allaby to Paralyze, dal quale abbiamo estratto questo pezzo. Più che altro ce l'hanno portato i nostri ospiti. Sì, esatto, questo è un pezzo dell'ospite in realtà. E ci veniva detto che non è tra i gusti dei presenti, o meglio, sono i Queen of the Stone Age, sono meno noti ai presenti, ma piacciono di più agli assenti. In ogni gruppo è normale che vi siano influenze diverse che poi vengono convogliate. Al di là è il risultato della canzone finale, poi la nostra canzone finale, intendo. Quello poi è un insomma, è scontato che ci piace, se la suoniamo, l'abbiamo anche incisa, insomma, è un po' scontato che ci piace. Andiamoci ad ascoltare allora. Sì. Queens of the Stone Age, questa è Medication. Regina Eletta alla Pietra, Medication, siamo tornati in studio, Music for You, ospiti gli Hermetic Garage, presentazione del pezzo della settimana, come tutte le migliori radio composte da soli falliti come noi. Allora, del tempo addietro, in sostanza, avevamo presentato questo duo chiamato The Pain of Being Poor at Heart. Che è un gran bel nome, sì, secondo me. La pena di essere dei puri di cuore. Molto metaforico. Ora. Questi... nel tempo hanno deciso che era giusto reiterare nelle loro attività, sì, diciamo, le attività che tanto li rendono famosi. Stai per caso dicendo che, in altre parole, hanno buttato fuori un album nuovo? Hanno fatto un disco. Ecco, mi pareva. E niente, l'hanno fatto, è uscito da poco, e ho sentito oggi su Spotify. Il 29 marzo è uscito. E non è male, sembrano tanto gli Smashing Pumpkins. Ecco. Cerchiamo conferma nel pezzo. Cerchiamola. Ma cos'altro dire? Assolutamente niente, che sono da New York e gli auguriamo il meglio, cioè di non finire come noi. Sì, esatto. Anche perché, voglio dire, sei a New York, qualcosa partorirai. Sì, comunque non è che vai a registrare appena di fronte al Bar Roma. Anche perché dubito ci sia un Bar Roma a New York. Magari anche c'è. Magari anche c'è. Belong, the pains of being pure at heart. We'll be right back. Pains of Being Pure at Heart, questo era il nuovo singolo Belong, estratto dal nuovo album omonimo. Bentornati in studio Music for Youth, ospiti gli Hermetic Garage, Favotto con quell'aria interessata, già mi stuzzichi, qualche appetito e nuove domande. Su qualche appetito avrei delle domande io. Era la stessa frase che, con la quale esordiva Pacciani davanti alle sue vittime, ricordate? o Michael Jackson. Non addentriamoci troppo in queste cose, lasciamo l'ambiente a Donatella Raffai. È vero però, perché che Pacciani lo faceva spesso, perché in effetti a lui piacevano le merende. I suoi compagni apprezzavano. Bene, continuiamo a interrogare gli Hermetic Garage o Garage, andando a chiedere. Sì, guarda che il compitino però lo stanno facendo molto bene. No, ma guarda che c'è uno degli ospiti più preparati che ho trovato finora. Allora, e parla sempre al singolare, nonostante noi continuiamo a essere due. Quando volete giocarvi Firouge, avvertiteci, perché vale doppio. Esatto, ricordate? Siete voi la Croazia e chi è che gioca? Noi siamo Bressanone, noi per siamo... il Tirolo. Allora, abbiamo fatto un breve excursus storico sulla loro carriera. Stica. Ci è molto piaciuto. Abbiamo detto che si parte con delle cover, dopodiché voi licenziate un EP di punto in bianco. È proprio bello dire licenziamo un EP. Licenziamo un EP. Licenziate un EP, come nasce questo parto? Quando? Perché? Come? L'idea dell'EP è nata a fine primavera dell'anno scorso. Lo scorso anno i brani erano già stati partoriti, cioè c'erano, oltre ai brani di Sede nell'EP, all'epoca c'erano già altri brani, infatti abbiamo fatto una cernita di questi brani, cercando di scegliere in un certo senso quelli più eterogenei, perché ricollegandosi al discorso di prima, per dimostrare come la nostra creatività possa andare in direzioni diverse. Dopodiché, se si vanno ad ascoltare anche altri brani che abbiamo fatto, si può trovare tranquillamente un filo conduttore anche con gli ultimi brani che stiamo producendo proprio in questo momento. È nato l'EP perché c'è bisogno di qualcosa da far ascoltare quando c'è bisogno di trovare una data, perché ti chiedono, hai qualcosa da farmi sentire, quando chiedi salve, posso venire a suonare nel vostro locale, e noi non avevamo niente in mano, e a un certo punto, piuttosto che registrarci con il telefono in sala prove, non avendo nessun tipo di mezzo, non avevamo neanche abbastanza microfoni per microfonare la batteria noi da soli in sala prove, ci siamo affidati a un nostro amico, Enrico Della Versana, che nello studio Beat di Preganziol ha fatto un lavoro veramente egregio, e ci ha anche poi permesso di fare il mastering a New York. È sempre molto bello al Joe Lambert Studio di New York, in cui in realtà hanno registrato chiunque, cani e porci, da Beyoncé a non so dirvi chi, però insomma c'era una lista infinita quando sono andato a vedere chi aveva fatto il mastering lì, perché è uno studio molto famoso e in realtà cioè, può farlo qualsiasi band, anche dell'Indonesia, della Thailandia, senza discriminazioni di religione, sesso e provenienza. È che se non la spieghi tu mi pensi il Martinelli che prende questo volo della Delta per New York. Infatti la prima cosa che ti chiedo è: ma non siete andati a New York, vero? Ma tu devi dirgli no, gliel'abbiamo mandato. No, perché sennò la domanda subito conseguente era: c'è un bar Roma a New York? Sì. Noi presumiamo assolutamente di sì, e sarà il primo posto dove vorremmo andare a suonare, soprattutto se è identico a quello che c'è qua. Comunque me lo immaginavo veramente in aereo con il suo vodka tonic in prima classe. Sì, esatto. Che dice prima classe, ma è uno sballo. Succhi d'arancia e bicchieri di cristallo. Vedo che siamo tutti preparati. A New York. Un pezzo nuovo? Sì. Giusto per dare il giro alla musica, che abbiamo anche sfranto le palle con le nostre voci. Oh, bene. Allora, andiamo a sentire Tell Me Computer dei Two My Boy. E adesso rangite, visto che ti ha portati. Allora, Two My Boy sono un duo inglese. Uno è da Liverpool e uno, secondo me, Chesterfield. Da un qualche posto che si chiama come le sigarette, esatto. Bravo. Chesterfield. Allora, questi due fanno un genere che è un po' di wave, un po' di elettronica virata al pop. Se volete dei riferimenti famosi, ci sono i Leditron, che hanno anche suonato qui all'Airport Festival. Bravo. E sono stati delle cose grosse, e gli Fisher Spooner, che magari sono meno conosciuti, però che hanno da dire la loro. Questi li conosce qualcuno? No. Però hanno delle loro famiglie anche loro. Sono franco-belgi. Anche a loro. No, sono inglesi. Questa è falsità. Hai appena detto che è inglese, da Liverpool e Chesterfield. ma era per stimolare un dialogo anche da parte tua, perché tante volte ti vedo avulso. Sono un po' come le classifiche di fine anno, avulse. Sei avulso. Tell me, computer, dei two, my boy. Tell me, computer dei Two My Boy. Siamo rientrati con gli Hermetic Garage in studio e io ho una domanda: dov'è Atlantide? Potete specificarmelo? Sì, sono colpito da più. Sì. Parte del titolo. Dov'è Atlantide? Sì. O soprattutto perché questa domanda, più che dimmi perché dov'è? Beh, perché ti abbiamo chiesto di escluderne alcune, quindi te ne rimanevano poche in realtà. Dov'è Atlantide è il titolo dello splendido dipinto che ci è stato gentilmente concesso per la copertina del nostro EP da Rosanna Pellegrini, Nana Ghini. Ricordavo solo Nana Ghini, che appunto, beh, dispiace ovviamente non poterlo far vedere per radio, però è assolutamente Basta andare sul nostro MySpace o sulla nostra pagina Facebook e si vede. Bravo. myspace.com/hermeticgarage e lo trovavamo estremamente rappresentativo di quello che stavamo facendo. Diciamo ha due colori principali, no? Il rosso sul fronte e il blu sul retro. Poi il dipinto era formato da un sacco di cose diverse. C'erano della stoffa, delle borchie. In realtà era un po' rappresentativo anche delle piche. Era così eterogeneo e, insieme al titolo, che anche quello è open source, potete leggerlo come desiderate, è Now Here or Nowhere. È un po' la produzione di questo momento verso non sappiamo nemmeno noi bene dove, quindi è Now Here and Nowhere, e poi c'è Dov'è Atlantide, che abbiamo scelto di in qualche modo omaggiare o comunque rendere parte della nostra produzione anche il dipinto di Nana Ghini. Io sono basito per questa spiegazione, che non ho compreso dall'inizio alla fine, ma è totalmente in italiano, quindi sono solo io scollegato, in realtà scherzo. Questo bel rosso Magello e questo blu Savoia. Tea Magello. No, complimenti, perché vedo che riuscite ad associare molte cose tutte in un solo prodottino finale. Complimenti, beh, tanto grazie, e vanno di sicuro a Rosanna e anche a Marco Basutto, che ha curato le grafiche. Sì, il nostro intento in generale sarebbe quello di riuscire a commissionare, come è riuscita a fare lei, sulla tela, generi diversi, tecniche diverse, materiali diversi, farlo nella musica, farlo con le parole, insomma. In realtà era anche un po' la domanda che ci facevate prima sulle influenze. Io ricordo di aver già risposto a, a questa domanda in un modo molto negativo, però in realtà era bello pensare al fatto che le influenze non siano solo esclusivamente musicali, ma così come il fumetto di Moebius, così come il dipinto di... è possibile realmente cercare di fare sintesi delle nostre esperienze, e noi utilizziamo il mezzo della musica per esprimerle in qualche modo e per far arrivare la sintesi delle nostre esperienze agli altri. Altri artisti o semplicemente altre persone sono in grado di utilizzare altri strumenti, e probabilmente meglio di noi abbiamo scelto questo, e altri utilizzano i loro strumenti per far arrivare il frutto della loro esperienza, del loro lavoro creativo, attraverso la loro sensibilità creativa riescono a far arrivare questo ad altre persone. Noi utilizziamo questo, insomma, cerchiamo di anche supportare altri artisti in questo percorso che facciamo. Dovrebbe essere questo lo scopo principale dell'arte, in sostanza, cioè filtrare attraverso la propria sensibilità la propria esperienza, in sostanza. E da questo EP andiamo ad ascoltarci una seconda traccia, che è What If I Go Mad? E che cosa potrebbe succedere, Favotto? Ma intanto questi si stanno scambiando dei 5 alti, sì, ma perché? No, non lo so, credo che sia un loro modo di comunicare. Allora, io vorrei sapere qualcosa del processo compositivo di questa canzone. Allora, partiamo dal titolo. Chi è che scrive i testi qua dentro? Io, il cantante e tastierista. Oh, bene. Tastierista seduto? Tastierista seduto e in piedi quando deve suonare il sintetizzatore, per questioni di forza maggiore, nel senso che è più alto la tastiera, quindi devo alzarmi per suonarlo. C'è molto di contingente della musica. Era una curiosità personale. E in invece la parte, la parte musicale come nasce? Allora, e poi prima il testo e poi la musica in contemporanea? Nascono tutte quante da processi diversi, e non è detto che ogni canzone subisca lo stesso processo, in sostanza. Quindi possono nascere da delle gemme che facciamo in sala prove. Può venire un membro del gruppo con una sua idea che poi viene sviluppata e si mescola ad altre idee. Per adesso è stato molto difficile, almeno non è mai capitato che si creasse una canzone al testo, per adesso no. E comunque, diciamo, contribuisce a creare l'atmosfera, nel senso che molto spesso, se ci diamo una direzione nella quale comporre o sviluppare un'idea, il testo contribuisce molto magari a poter dare dei riferimenti agli altri musicisti per sapere anche come creare la loro stessa parte, in sostanza. La scelta italiano versus inglese, voi andate per l'inglese. Allora, quello perché? No, non che abbia, nel senso, cioè, io non ho un'opinione a riguardo, devo dire. Ma appunto, è questione di opinione, probabilmente, nel senso che non c'è sicuramente una risposta definitiva. Io posso parlare per la mia esperienza, però in realtà credo che sia sentita da tutti e quattro. In realtà l'inglese è un po' una lingua franca, e quindi questo ci permette in qualche modo di arrivare anche a persone che non necessariamente parlano l'italiano. Per la mia esperienza mi sono trovato a parlare con persone di paesi diversi, e tutti quanti parlavamo in una terza lingua che non era la nostra, eppure eravamo in grado assolutamente di capirci, e anzi di fare discorsi articolati, cosa che a volte non si riesce neanche in italiano. Ma guarda, se poi guardi le nostre facce, esatto, cioè... ti è chiaro che ancora prima di cominciare il discorso. E tra l'altro anche un'altra cosa, e poi è molto più musicale a volte, insomma, per alcuni aspetti, quindi... No, ma poco, ma sicuro, okay, che è molto più musicale, sì. Perché ha sillabe, cioè ha parole composte da poche sillabe, quindi è molto più facile incastrarle ritmicamente all'interno della canzone. Cioè, semplicemente questo, a volte. Ma in realtà anche il background culturale della musica che ascoltiamo è per lo più in inglese, quindi questo ha contribuito oltre, cioè questo è in secondo piano rispetto a quello che ha detto Mauro. What If I Go Mad? Hermetic Garage, a music for youth. We'll be right back. What If I Go Mad degli Hermetic Garage. Siamo rientrati in studio Music for Youth e si passa a una delle tante influenze di questa bella band della Bassa Piave. Vero o no che i Radiohead sono una vostra influenza? Ora siete costretti a rispondere di sì, perché non si nega un sì al conduttore. La seconda domanda era: vero o no che siete una bella band della Bassa Piave? Ma come potremmo sottrarci a una così bella definizione? Molto bucolic. Oh, parliamo un po' di Radiohead. Chi è che li ascolta qui? Chi mi ha portato Mixomatosis? Tutti. Bravi. Tutti li ascoltiamo. Chi più tardi, chi più presto, però abbiamo ascoltato tutti e credo che ci abbia insegnato profondamente nella nostra infanzia, adolescenza e età adulta. So che Martinelli era molto contento quando è uscita Lotus Flower, che è stata messa in programmazione la settimana precedente a questa, in questo in codesto programma. O ricordo sbagliato? No, ricordi giusto. Non è vero, quindi non potrei rispondere diversamente. D'altra parte ero particolarmente in quanto felice. Sei tanto un bel ragazzo della Bassa Padana. Ah, mi sono anche tagliato la i capelli. La Bassa Piave. Oh, cosa, me l'avete ascoltato l'ultimo album? Sì, no? Sì, sì. Apprezzate? Giusto per sapere, che a me è piaciucchiato, però c'è stato di meglio. Sì, sì, boh, io personalmente lo apprezzo, anche se credo che risenta sempre di più del lavoro solista di e Tom. Quindi di Tom, sì, e quindi probabilmente sta davvero dando lui molto una direzione alla band, però non so, cioè, comunque l'ho apprezzato, non è uno di quelli che apprezzo di più, insomma. Dimmi che era Pablo Oni uno di quelli che apprezzo di più. Credo, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Mauro e credo che si debba aspettare quando uscirà forse l'uscita a maggio, che forse pare escano altri brani che magari lui ha scritto assieme alla band, perché questi qua sembrerebbero il doppio disco di Eraser, come si chiama? L'album solista di York. Di Tom York. Sì, ho visto che ha rilasciato anche una traccia con i Burial e For Death, una roba, ecco, un po' che è una porcata. Sì, ma anche con Mod Selector, che è un duo tedesco. E alla fine sì, io sono abbastanza d'accordo, si sente molto meno Johnny Greenwood in questo disco. E lui, Johnny Greenwood tende a essere molto più eclettico, secondo me. Se devo dire la verità, io ho sempre avuto un grande amore che non mi ha mai ricambiato Johnny, caro. Però dopo i miei numerosi haiku in cui io gli dedicavo tutto il mio amore, lui ha scelto un'altra strada. Ora io mi rilasso con una mia baby mia. Torniamo un po' alle origini, per piacere, ossia Hail to the Thief con Mixomatosis. Me l'ha portata il Martinelli e tutti gli altri a seguire. Ce l'andiamo ad ascoltare su Music for Youth, i Radiohead con Mixomatosis. Mixomatosis dei Radiohead da Hail to the Thief. Siamo rientrati a Music for Youth ed è il tempo dei saluti, non prima dei contatti che vi sparo uno dietro l'altro. 0421 560 993, telefona, 0421 560 94, mandami un fax, radio@radiosandona.it, mandami a Remengo, e http://www.musicforyouth.wordpress.com è l'indirizzo del nostro blog dal quale scaricare questo podcast con gli Hermetic Garage o ascoltarvelo in streaming. Lo spelling di youth per i non anglofoni è favotto 0421 560 993. Telefona YOUTH. È il tempo invece dei contatti per gli Hermetic Garage. Sparate tutto quello che volete. Sparate anche sulla folla e anche sui fagiani. Speriamo nel mucchio. Ci trovate su myspace.com/Hermetic Garage oppure su Facebook. Cercate Hermetic Garage. Dovreste trovare un paio di pagine che ci riguardano. E speriamo... una non vostra, aperta da dei fans. Sai come funziona con Facebook? Ne apri due o tre e poi te le dimentichi. E, a breve anche su hermeticgarage.com. Addirittura? A breve. .com, nel senso proprio di pettine. Vi risentiremo presto, speriamo di sì. Cioè, sappiamo che c'è, state covando come le galline questo veto che si chiama album. E so che ci sono delle buone progressioni. Speriamo di sì, speriamo di farcela per il 2012 ormai. Verrà attivato un conto corrente per sostenere gli Hermetic Garage. C'è la postale, sì, famose, per sostenere la ricerca degli Hermetic Garage. Le famose 36 ore per gli Hermetic. Fabrizio Frizzi ci farà un programmone. Sì, ci sarà l'Avenier e Marisa Laurito e Peppe Quintale, che secondo me per queste cose si ricicla. Sì, sì, poi c'è anche Paolo Fox che ti sbologna quattro boiate delle sue, non ci facciamo mancare niente. Adriana Volpe e soprattutto guest star i Verve, pezzaccio anni 90 riesumato dal nulla. Oh, finalmente questa cosa, sappiatelo tutti i radioascoltatori, l'abbiamo partorita al bar. Lui aveva preso un, credo, un cremino, io avevo preso un succo d'arancia. Sì, pensati, che schifo. Esatto. Tu dici che gente senza prospettive, siamo gente senza prospettive. Sì. Ditemi che non avete limonato su Bittersweet Symphony, ma non raccontatemi cagate. Un po' con me stesso. Sai quando ti abbracci e praticamente ti limoni l'avambraccio, insomma. Sei qui. Te l'unico che fa queste porcherie assolute. Ditemi che non avete camminato su una qualsiasi macchina come fa Richard sul video. Quanta meraviglia. Ma qualche, non c'è dell'arte in quel video lì. Anche Lucky Man a me piaceva un sacco. Sì, sì, sì. Anche The Drugs Don't Work. Che poi c'è stato anche tutta quella parte di sproloquio tra loro e gli Oasis ai tempi. Pipì, Pepe, qui è mio, no, qui è mio. Dove hai messo tu quelle mani, no? Dove le hai messe tu? Esatto. Forse nello stesso posto dove le avete messe entrambi. Intanto quelli dei Blair si occupano di tipo formaggi pregiati. Eh sì. Che è una delle attività canoniche del bassista. Ci potete fermare per cortesia, se no noi andremo avanti. Ma ore piacevole, posso andare avanti ancora? Noi staremo qui ora a benissimo sentirvi. Tra l'altro non so se ti ricordi, Al, c'era anche uno che aveva il brevetto per elicotteri, per quella guida di elicotteri, quello di Blair. Sì, è vero, i Blair sono delle persone assolutamente poliedriche, sappiatelo. Mica come te che sei a una dimensione, no, come il buon Marcuse, un uomo assolutamente monodimensionale. In realtà i Blair in sé, a parte fare dell'ottima musica, ce n'è uno assolutamente specializzato in droghe, no, in conoscenza di formaggi pregiati. Poi ce n'è un altro che ha il patentino da elicotterista. Poi c'è Grant Coxon che beve moltissimo. Assolutamente sì, è Damon che si dedica a tutti i progetti paralleli con Gorillaz, The Good Band and The Queen. Eh sì, che io consiglio entrambi. Bene, detto questo, andiamo a parlare dei Verve. Ma Verve, un gruppo assolutamente piacevole, secondo me. Anche a me. Primo CD molto psichedelico, no? Sì. Poi Stormy lui Heaven. Con quei capelli lì. E la mia domanda è riunto? E sì, sì. E non usare il passato. È unto. Sei unto ancora oggi? Sì. È unto perché, tra l'altro, come Zucchero, che ha la carriera finita, continua a buttare fuori canzoni su canzoni. Si ricicla in gruppi da quattro soldi, United Nation of Sound per esempio. Sì. Mi licenzia album riesumando i Verve con Forth. Basta. con forfora anche. Con forfora, cioè, c'è la polvere, c'è la forfora, basta, ma chiudi in un cassettone. Esatto. Ho capito che le royalties di The Sweet Symphony le devi cedere totalmente a Rolling Stone, ma non è un problema, avrai sì, guadagnato altrove. Per chi non lo sapesse, quella parte lì, tan tan tan, ecco, l'hanno fatta loro, no, l'hanno fatta i Rolling Stone. Comunque gli Hermetic Gara si sono anche rotti le palle di ascoltarci. Vedo Martinelli che sta soffrendo, no, Martinelli... come una cerbiata con la zampa incastrata sulla tagliola. Esatto, aspettando il cacciatore, Martinelli ha scoperto che la sedia può girare su se stessa. E è una delle cose migliori di questa settimana, penso. E tutto ciò non è bellissimo, io penso di sì. Ricchi premi e cotillon. Favoto sia per te la tua vita una Bittersweet Symphony. Ciappatela nel senso di veloce, però dolce. The Verve su Music for Youth, grazie agli Hermetic Garage. Grazie a voi. Ci sentiamo la prossima settimana. Change, I can change, I can.